Attribuire a Gesù l'incapacità di peccare perché era Dio significa negarne la natura umana uguale a quella di ogni altro uomo, significa dimenticare che era soggetto a debolezza, e b. 5.2. Se Gesù non poteva peccare, come poteva essere un uomo a tutti gli effetti ed essere il secondo Adamo? Se Adamo creato senza il peccato ha potuto peccare, e se Gesù è il secondo Adamo, dotato della stessa natura senza peccato, allora Gesù aveva realmente la possibilità di peccare, anche se era positivamente santo e giusto. Atti 3.1.4. Gesù era un uomo, anzi, il vero uomo. È opportuno rileggere lo scritto di Paolo, che molto probabilmente era un inno dei primi cristiani, in una versione che mi sembra molto appropriata. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo. E, divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Gesù, simile agli uomini, non uguale. Simile perché aveva tutte le caratteristiche in comune con il genere umano, meno una, il peccato. L'autore della lettera agli Ebrei scrive in merito a Gesù: infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Ebrei 4:1/4. Anche la tentazione di Gesù può essere differentemente spiegata a seconda del proprio presupposto di partenza. Se Gesù non poteva peccare dinanzi alla tentazione, che meriti ha avuto per ciò che riguarda la redenzione? È come un eunuco o un cieco che non cedono alla tentazione di una bellissima ragazza provocante. Può forse ricevere i meriti come un uomo che può cadere nella tentazione? Se invece Gesù poteva cadere in tentazione, allora è stato l'unico uomo della discendenza di Adamo che poteva peccare e non lo ha fatto. E questo torna a sua gloria. Inoltre, nel rimanere immune dal peccato, Gesù ha dimostrato che un uomo condotto dallo Spirito Santo è in grado di non peccare. Sì, perché Gesù non ha redento l'umanità con le capacità divine, ma mediante la sua natura umana, sottomessa all'azione della persona dello Spirito Santo. Se invece Gesù non ha peccato perché era Dio, chi ha riscattato l'umanità? Non l'uomo Dio Gesù, ma solo Dio. Questa distinzione non è un sofisma, per voler dire quello che si vuole, ma dal momento che in Gesù Cristo sussistono due nature, riconosciute fin dagli albori della cristianità, occorre distinguerle e separarle. Non che in Gesù le due nature siano separate, ma sarebbe assurdo non volerle riconoscere differenti. Una è umana, l'altra è divina. Se non si compie questa differenza, tante parti della scrittura rimangono nascoste alla nostra comprensione. Facciamo l'esempio della resurrezione di Gesù. In più parti nella Bibbia leggiamo che Dio ha risuscitato Gesù dai morti. Rom 4.29, 10.9, 1 Cor 6.14, 15.15. Mentre Gesù stesso ha detto chiaramente che nessuno poteva ucciderlo, ma aveva il potere di deporre la sua vita, come aveva il potere di riprenderla. E questo secondo l'ordine del Padre suo. GV 10.18. Vi è forse contraddizione? Chi ha risuscitato Gesù, Dio o Gesù stesso? Se si risponde che è stato Dio a risuscitare Gesù, c'è da chiedersi: ma Gesù non è Dio? Se si risponde che è stato Gesù, allora perché è scritto che è stato Dio a risuscitare Gesù? Per quanto ho compreso, la risposta è da ricercare nell'ambito di una teologia molto evidente nei primi secoli del cristianesimo, ma che è andata perduta, lasciando così insoluti molti interrogativi. Un piccolo accenno può aiutare a comprendere meglio le due nature di Gesù e può risolvere vari interrogativi. Occorre fare una distinzione. Nella Bibbia, quando si parla di Dio o si legge questo termine, non lo si deve confondere né associare automaticamente al termine Yahweh, cioè la divinità rivelata nell'Antico Patto. È vero che Yahweh è Dio, ma non necessariamente si può affermare che il termine Dio indichi sempre la persona di Yahweh. Dio è anche la persona dello Spirito Santo, è anche il Padre, è anche Cristo, mentre Yahweh è una sola ben specifica persona, che è stata vista e toccata. Per questo, non possiamo usare indiscriminatamente il termine Dio e il termine Yahweh come se fossero sinonimi. Molti studiosi concordano che non è possibile. Infatti, quando leggiamo il termine Yahweh dobbiamo scorgervi la persona di Cristo prima che assuma un corpo nel seno della Maria Vergine. Perciò, quando parliamo del figlio di Maria senza peccato, possiamo usare la parola Cristo per rifarci alla sua natura eterna, mentre quando usiamo l'appellativo Gesù ci riferiamo alla sua natura umana. Per questo possiamo dire che Gesù come uomo è nato circa 2000 anni fa, mentre Cristo, cioè la sua natura divina, è eterno. Quindi, quando diciamo Cristo Gesù, senza saperlo, noi dichiariamo le due nature, quella divina e quella umana. Se riusciamo a fare questa distinzione, possiamo comprendere anche le distinzioni fatte nella parola di Dio. Dal punto di vista divino, Dio, e quindi anche Cristo che è nel seno della Trinità, ha risuscitato Gesù. Dal punto di vista umano, Gesù ha risuscitato se stesso. Una distinzione che non deve essere presa in malo modo, perché Gesù stesso spesse volte ha parlato di sé in terza persona, come quando disse «quando il figlio dell'uomo verrà», come se il figlio dell'uomo fosse un altro. In quel momento Gesù parlava di se stesso, ma vedeva l'evento del suo ritorno nella sua divinità. Credo che sarebbe auspicabile e molto costruttivo se i cristiani del XXI secolo vedessero le due nature di Cristo in tutta la Scrittura, partendo innanzitutto dall'Antico Testamento, il quale altro non è che una preparazione per accettare il grande mistero inteso come verità rivelata dell'incarnazione di Dio. Abbiamo espresse in calibrate formule dottrinali le due nature di Gesù, ora occorre esprimere in altre calibrate formule come queste due nature si sono manifestate. Quando la Chiesa di Cristo si prenderà questo impegno, sono sicuro che molti interrogativi spariranno e, con una più piena rivelazione, annuncerà con maggior franchezza Cristo Gesù e Lui solo. Aprile 2011. Ellero,